Costantino, la verità a me quelle cose, le cose così non me la fa. Se io gli si dico un demonio, cioè si nota la differenza, si nota che era lui. Senza processo, solo che quando stacca da questo colpo di per circa, ti posso dire, 30-40 microsecondi, poi scende a zero il coso. Non rifarlo? C'è un falso contatto, l'elettro. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Chiaramente ho. Aspetta un attimo, stazionarie. Aspetta anche che spegniamo qua, che non vorrei. Stazionarie sono a 1 e 1 con picchi positivi in modulazione, e lo stesso per quanto riguarda sia i watt che no, le stazionarie sono quasi fisse. Allora, disinserito, inserito, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. Adesso ho agganciato. Capo, me ne sono reso conto anch'io, adesso ce l'ho in cuffia. Adesso ho agganciato, dovete fare inserire, un pochino di volte, mentre stai parlando però. Capo, guarda un attimino, ma me lo sto sentendo proprio il riverbero in cuffia dell'inserimento, guarda. Tolto, messo, tolto. Messo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Sembra che adesso non si disinserisca, sembra che adesso ad esempio è tolto, Adesso è messo, ola. C'è il microfono teso, saluto. E la MB più 5, adesso è inserito. E i valori come sono? I toni, la tonalità microfonica, l'apertura come? 8 e 8. No, metto a 7 il tono. Allora, sto scendendo da 8 a 7 in questo momento, con volume del mic gain rimasto a 8, quindi è 7-8. No, allora lascia stare il mic gain a 8 e scendi con i toni e poi vediamo, perché non mi piace la modulazione, scendi con i toni, scendi a 6. Allora, adesso te li faccio tutti, siamo a 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, devi parlare, no, non mi servono i numeri, devi parlare, fare piano piano, mettilo a 1 e parla normalmente come devi parlare, senza contare. Questo è il livello 1 del tone, sono a una distanza di circa 25 cm, adesso vado a livello 2, questo è il livello 2, 1, 2, 3, sono a livello 2 del tone con mic gain sempre rimasto sull'8, salgo a 3 con i toni del microfono e rimango sempre a 8 con il mic gain, guarda un po'. Già capito, metti la tonalità 10, metti al massimo 8, lascia il mic gain del microfono 8, metti la 10 il tono. Allora, questa è tutta canna col tone, invece col mic gain è rimasto sempre a 8. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova microfono. Mettilo a 7 il mic gain del microfono. In questo momento si trova a 7. A 7 e aspetta che guardo. Ola, ci sono dei picchi positivi, non ce l'ho di fronte, quindi non lo vedo bene, aspetta un attimo che mi sposto. Sì, ola, servono da 10 a 40 circa e il mic gain dell'apparato è sulla I. Metti il mic gain dell'apparato sotto la C. In questo momento si trova quasi alla fine della C, centro fine C. 1, 2, 3, prova, guarda un attimino come mi senti, sono sempre a una distanza di 20 cm dal microfono. Metti a 8 il tono del microfono. Questo è 8 il tono del microfono con il mic gain a 8 e il mic gain a C. 1, 2, 3, prova, guarda come mi senti. Non mi piace per niente. Dai. Allora, metti elettronica al 6, adesso dovrebbe andare un attimino meglio, guarda un attimino come sta andando la potenza microfonica. 1, 2, 3, prova microfono. Adesso come tonalità medio alta, ci sei, Antonio? Lo si è addormentato. Come tonalità microfonica sì, però mancano sempre i medi, non abbiamo i medi in quel microfono. Dai, mettilo a parte lì, se passi adesso 2 minuti, poi mi dai io 2 minuti, ti porti via l'altro 140, ti porti via l'MC60, vai, e almeno non hai nessuna regolazione da fare, ci metti 2 minuti da lì, dai. Questo qua cosa ne faccio? Lascialo a parte, metti questo qui lì, dove lo usi di più, con le MC60. Capo, già dai, passo fra esattamente 5 minuti. Dai, ti aspetto, forza, veloce, così facciamo un'altra prova e vediamo come sono qua. Muoviti, va, non ti perdere. Capo, sto uscendo. Scusami un attimino. Dimmi a tu. Guarda che ho trovato un giusto compromesso di... con le cose, come si chiama, con le stazionarie. Glielo vogliamo dare un'altra prova al servizio? No, vabbè, vai. Sono stazionario da 1 e 4. 4 e 3 e 4. Sì. Dammi 2 secondi, quindi non è che... però ho sentito che ha un petit chat, uscendo con questo F della delta G, F più 5, come sto uscendo? M più 5, come ci hai detto? Delta G. Non ho sentito tutta questa preamplificazione, ma quanto ce l'hai? A 10 il tono, il coso è a 3, ma chi è? Si parte la vento, adesso è staccato lì, guarda, replica. Allora, ti dico solo che ieri sono arrivato da Pinocetto Nuovo, ieri notte che mi sono rotto la palla della tangente. Sono arrivato a Pinocetto Nuovo 9:10. Sì, te lo credo. Io ero due che arrivavo alle 10, perché io non posso attaccarmi più di quella cosa, sono mezzo intenzionato a riprenderlo con Aggeggio e a cambiare antenna, metto la 3/4 onda che c'era Leandro, non da 9 metri, a Porta della Radio c'è un cerchio grande e resiste 2-3 watt, adesso vedo di recuperarlo, se come lui interessa un paio di monitor di computer. Adesso vediamo se secondo come faccio da fare. Attenzione Antonio, pacchetto. Ehi dai, non ti costa il piatto, adesso non fa un caldo allucinante. Tu questo è guai, C'è due ventoli, una non so se la senti, è quella che gira normalmente. E quella quando schiaccia la portante, che è quella purtroppo è quella lì. Qualcosa 2005, diciamo silenzio. Sai come mi stai prendendo dopo la bottiglia di andare a comprarmi le 1600 watt, come il quale c'avevo prima, che ho regalato. Successo il telefonale, a coso. E gli vediamo, li prendo. Antonio Drobbe, quando è con attacca quella limitata, quello che c'è vicino alla parete, sempre questo sotto, no? mattino, me l'ho salvato, carburante non passa più nessuno. D'accordo, e ho bene con tutta la vacuola. Adesso facciamo un muro di brillo, si mette in tre. Come facciamo una volta con Claudio, quando c'era un po' di guerra da fare, ci mettiamo la vacuola io qua, mettiamo nel canale, facciamo la... il muro di Berlino. Eravamo io e lui con l'ideale grosso attaccato, io da Berlino e lui da qua, poi da qua era ancora peggio quando mi sono trasferito. Contavo tutti i giorni, io, quando si lamentava da Daniele, quello che c'era in all'università, un po' mi sono ammazzato, non sento più nessuno. Ah, ascoltami, ecco, purtroppo sono come trovare le giurate, che ci mi tiene? Quando mi diceva basta, prima lo contavo, quando mi diceva, non mi diceva niente, prima lo spegnevo. Vabbè, dai. Fate girare. Attenzione Antonio, fa cento. Cento. Taglio. Bello. Avanti, ma aspetta. Sono in macchina, sono qua, la città è via Maldetta, Va bene, mi sto vestendo che lo nudo, caro, se no ti violento. Hai tesoro. Tonio, fa scritto. A torre. Ehi, dai. Perché loro fanno una cosa, del UHF, non so se devo procurargli qualcosa per metterla nella pacca, non lo so. Ho capito. Boh, non lo sento bene, la verità, mi ha telefonato l'altro giorno e voleva che andavo a dare la mano per la macchina. E ho detto, che lo prendo, non mi cerca, detto che... sono pagato, devo andare a fare i lavori miei. E poi sono preso, non so, non l'ha più telefonato. Non penso sia comunque ricoverato, spero di no, per lui. E chi dici? Mario Coso, quello che è delle antenne. Perché è ricoverato? Oh, così ha detto... da Giuseppe, però spero di no, comunque no, io sono da un po' che non lo sento, sono a 4-5 giorni. No, se ne stava poco io. Penso che... se ne stava poco. Così mi ha detto il fratello, quello che viene al circo, uno dei più sani, dai, diciamo. Non ci credo quello che dica il fratello, vuole sapersi, già è scalo, deve essere scalo, senz'altro. Se fosse come dici tu, mi avrebbe già telefonato a girarmi le palle e a portargli le cose in ospedale, quindi vuol dire che per quello in ospedale già non c'è. L'avevano detto apposta, io lo sai che non si possono vedere i tuoi fratelli. Vabbè che non è in quella famiglia, cazzo. Ci sentiamo dopo, ciao a tutti. Dobbiamo vedere chi è più intelligente dei loro tre. Da tre ne fai uno, ma non metto... Claudio. Sano, mezzo sano. Claudio. Hai già chiuso, Aldo? Giuseppe. La sensazione non c'è comunque, non spero. Se mi avete telefonato per portargli la roba, quando c'era tranquillo già, non penso che sia ricoverato. Campa, dai. 10 minuti sono da te, dai. Ehi, fai con copa, non c'è problema. Lui, tutta l'altra ho dormito nulla, tanto. Mal di denti, anzi, più che mal di denti. Da sopra a sotto, la specie di nevralgia. Dai, dove? Perché sono stato stronzo l'altro giorno. Non so se ho schiantato stomaco, mi hanno invitato una birra che era congelata. Io ormai non sono più abituato a bere in questa. Allora la lasciavo un pochettino in bocca a scaldare per non crepparmi lo stomaco. E da lì evidentemente ha toccato qualche dente che era bucato e prima mi ha fatto il primo giorno un pochettino strano, non mal di denti, una specie di una cosa di tipo pizzichino, una cosa così. Poi dopo l'altro giorno proprio ieri sera mal di denti forte, che è stata una vita una pila che non era proprio volente, era calda, come sto colto il dente, boh, me l'ha svegliato. E quindi mi sono avuto tutta la notte mal di denti. Adesso mi dice poco fa ho preso l'antibiotico e vediamo un po' se mi passa. Immaginati un fianco da sopra a sotto, tutta una parte. Quindi se tocca un dente ci passate quello di sopra, perché è lo stesso nervo. Non sei così, quello è sbalzo di temperatura, non sei così. Sì, io non sono neanche più abituato, ma bevevo la birra congelata con ghiaccio vento, non mi succedeva niente. Adesso ho un po' di tempo a questa parte, non la sopporto più la birra ghiacciata, capito? E quindi allora bevo o caldo appena fresca, ma ghiacciata come cettica, perché è vero, nel circo non si può neanche bere con ghiaccio vento, e poi si viene in casa. Va bene, dai. Ti saluto e ci si ascolta più dopo. Ciao ciao. E raccordati dopo.